Tramonti, capitolo 26esimo di Mirice. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Sergio Baldelli a Roma, gennaio 2008. Mirice di Giovanni Pascoli. Capitolo 26esimo. Tramonti. Primo, la sirena. La sera, fra il sussurrio lento dell'acqua che succhia la rena, dal mare nebbioso un lamento si leva, il tuo canto, o sirena. E sembra che salga, poi rompa in un gemito grave, e l'onda sospira tra l'alga, e passa una larva di nave, un'ombra di nave che sfuma nel grigio, ove muore quel grido, che porta con sé nella bruma dei cuori che tornano al lido che fugge, che scese già nella caligine, via, che porta via tutto, le chiese che suonano l'Ave Maria, le case che su per la balza nel grigio traspaiono appena, e l'ombra del fumo che s'alza, tra forse il brusio della cena. Secondo, piano e monte. Il disco grandissimo pende rossastro in un latte d'opale e intaglia le case ed accende i lecci nel nero viale, che fumano come foreste di polvere gialla e vermiglia. S'annuvola in rosa e celeste quel botro color di conchiglia. Qua lampi di vetri, qua lente cantate, qua grida confuse, là placido il muto oriente nell'ombra dei monti si chiuse. Si vedono opache le vette, e pace e silenzio tra i monti. Un breve squittir di civette, un murmure lungo di fonti. Via via, con fragore interrotto, si serra la casa tranquilla. È chiusa nel bianco salotto, la tacita lampada brilla. Fine del capitolo 26esimo.